Sì, in FM. Non attivo. È perché, diciamo, la radio non esce bene, cioè il microfono non sta andando bene se sei in AM. Prova tenendolo più lontano se funziona meglio. Ecco, adesso è più comprensibile. Lo devo tenere a 20 centimetri dalla faccia. Esatto, così ha migliorato parecchio. Se invece ci parli forse troppo vicino risulta tipo saturo, ma molto, quasi incomprensibile, capito? Deve essere un microfono sensibile questo qua. Esatto, e magari va un po' ripulito, capito? Ma cos'è di quelli preamplificati? Eccomi qua, scusa, non è amplificato, perlomeno non credo. Microfono dinamico. Ora. Attenzione, ha visita in dioghi. Beh, Antonio. Buonasera. Dove tu vai? Qua a Torsola, mi senti? Sì, a Puglia. Segnale sempre 9. Segnale 9, quanto è il segnale? Qua, Santiago 9. Ah, va bene, dai. Ah, va bene, Antonio, in tutta la città, sì. Tranquillo, già esci bene. Un bel longa e Sant'Enna. Io vendo santo, io sono rientrato una mezz'ora fa, stava facendo qualche gocciolina, perché ero uscito, però adesso mi sembra che non stia piovendo. Sta piovendo, sì. Poco, qualche gocciolina piccolina. Se fa così già fa bene, così non fa neanche danni. Poco è sempre piovendo già qualcosa. Ma non è traduisci uno in occhi? No, forse prima ho sentito Luca stava provando un microfono che non stava uscendo bene, capito? E se parlava lontano si sentiva bene, parlava vicino invece si sentivo, capito, male. Però poi evidentemente la Yeti è impegnata, dai. Presente, eccomi qua. Papà Luca, buonasera. Ciao Antonio, sto cercando un cavetto perché c'ho il palmare VHF marino, quello della barca, che non carica. Ho controllato le batterie col tester e non sembrano bruciate perché però metto a caricare e non mi carica. Eppure il trasformatore dai 12 volt, il cavo USB con lo spinotto mi dai 12 volt, però non carica. Non riesco a capire cosa può avere. Guarda, può essere la batteria che non prende la carica. E mi sa che allora me le ordino e le metto nuove e ci riprovo. E non c'è la pigliata, però VHF marino. No, il cavetto serve per ricaricare, senza le batterie non accende, cioè con le batterie stesse non accende, quindi evidentemente anche se le tolgo non accende. Se l'avevi lasciato in barca con l'umido, la salsedine, molto probabilmente o si sono ossidate le batterie, capito? Dovresti aprire e vedere come sono le condizioni delle batterie. No, le condizioni sono buone, è tutto pulito il vano batterie, è che non la ricaricavo da tanto e troppo tempo, l'ho presa dalla barca, l'ho accesa e accendeva, sono venuto qua a casa, l'ho messa a caricare e adesso dà solo l'impulso, dà un piccolo flash di display, però non parte, e magari sono proprio le batterie che non ce la fanno più, adesso provo a comprarne le nuove. Ma cosa sono quelle silo ricaricabili da 1200, quelle lì? Sì, 1,2 volt, sono quelle verdi, le mini silo. Ah, mini silo, non silo normali? No, sono le piccole. Ho capo. Sì, molto probabilmente, erano ferme da molto, magari ci saranno... saranno rovinate, capito Luca, a volte già lo fa, le batterie hanno quella capacità di tante cariche, però magari le ha lasciate cariche e quindi si sono scaricate del tutto e quindi vuol assicurare che col tempo abbiano perso proprio la capacità di ricaricarsi. E vabbè, andiamo a tentativi. Antonio, come va c'è a Sant'Orso, non ci vedi? Sì, a me sono qua nella Budi sono. Lì andando al mare, ci vedo se ne sono ancora, bel tempo sulla Budi Budi. Qua sono, ma no, che sono in macchina, capito? Sono curioso di vedere come riesco a uscire dalla macchina, perché c'ho la magnetica, che è quella che usavo prima che mi arrivasse l'antenna grande, che è piccolina, però in macchina non l'ho mai usata, l'ho provata solamente attaccata qua nel balcone alla ringhiera. Ma proprio come arrivo lì, quale luce gialle sono? Anto, io ti sento sempre bene alle luci gialle. Segnale 9 per Antonio e 9 per Carlo. Gaffa, io sono qua, le luci gialle, mi sono fermato un attimo, c'è un po' di palazzi. Bene, Anto, già siamo qua. E io ne ho due di base magnetiche, Luca, e tutte e due funzionano perfettamente, e ho due antenne. Una ce l'avevo qua nel terrazzino prima, che anche io avevo la frusta, capito? E la S9 dell'Alan, che è buona, diciamo, è abbastanza lunga. E quella praticamente c'ha la vite, quella galletto, è una base magnetica molto buona, puoi andare anche oltre 120 e non si stacca. Poi ne ho un'altra, lo stesso, presa nuova, l'ho usata una volta, ma è quelle con, diciamo, ce l'ha anche Gianni uguale alla mia, gliel'avevo presa io, ne avevamo preso due, capito? Insieme, poi non l'ho più usata e ce l'ho in garage. Sempre il garage. Quella casa che hai c'è il garage, c'ha pure, sì. Come Antonio? Detto, in quella casa c'è anche il garage, c'ha. Sì, ho il garage più Antonio. Buono, cavolo. Io sono buoni rimbarazzi. Cioè. No, ciò è all'interno, devi entrare nel cancello, capito? E c'è la discesa e ho la servanda basculante, capito? Ho capito. Comunque una cosa buona che ci sia il garage. E c'ho il lavandino con l'acqua, c'ho un banco da lavoro, capito, compressore, un po' di attrezzi, un po' di... c'ho anche un freezer là. Ora, ma Cicco, sta sentendo i nomi? Ti assistente, mi pare, si vede il marsupio? Cazzo di te, la Ciccherini? No, Panariello, ti ammetti. Si vede il marsupio, si vede? E già mi lamento già. Carletto, ma sei liscio? Avrò, sì e no, 12 watt. Già va bene. Ascolta, la mia radio com'è, potente? La tua è sempre buona qua, vivi a bomba. Sì, ma la radio com'è, potente, va bene, ora devo sollevare ancora. No, la voce è bella, roboante, non la sollevare, già va bene così. La cassa è una bomba. Cazzo, sono una settimana appresso a questo MC60, cazzo. L'avevo comprato praticamente, rinnovato un po' di roba di Natalino, ma non vi dico com'era questo MC60. Non voleva visto, l'ho dovuto tutto rifare a nuovo, proprio esternamente e internamente. E lo sto provando per vedere se addirittura l'ho preso. 16.60, non so come ti ha fatto diventare a GAPS, lì c'era tutto toccato, tutto manomesso. All'interno addirittura c'erano anche delle pile, delle batterie, gli ho tolte, pulito tutto, la piedina, rimessi i fili come erano, guarda, spero che stia funzionando bene. Alla grande, claro. Sono usciva, a volte si chiamava un casino. Oggi ho giunto, mi ha rompito le balle. Adesso lo faccio tutto a pezzi. L'ho fatto tutto a pezzi e l'ho messo tutto com'era in origine. Mi sono aperto il mio e l'ho messo tutto in origine com'era. Revoco, vini in più, fili di massa, saldati sotto nella piazza, al circuito stampato, per non fischiare. Non deve fischiare, se fischia c'è un problema. Va benissimo questa radio che stai usando, Claudio, va molto bene, la radio proprio bella. Questa è la radio mia, Carlo, io sono sempre uscito così, questo è il 440 che sto andando oggi con quella, farò andare un po', di solito uso sempre il 140, ma il 140 ce l'ho da un'altra parte, l'ho messo in banda amatoriale. Ce l'ho in 80 metri, sto provando anche, come non hai in 80 metri, quella radio va molto bene. Come sei, Anto? Ora sono qua, sono al monte, sono. In mezzo ai palazzi, va bene, vedi che ti aiuta moltissimo con l'amplificatore. La voglia mi aiuta. Tanto a casa ce l'hai il lineare, no? Ce l'hai l'amplificatore a casa? Non c'è il vivo 131? Sì, certo, l'ho visto. Però non c'è una cosa qua, sarà giusto. Però secondo me, a confronto a quello transistor, noto che anche le stazionarie sono diverse. Pompa di più, è migliore. Cioè, quando lì il BV131 c'è molto di più, se mi basta. È migliore, però secondo me la pulizia della valvola è tutta un'altra cosa, non c'è bisogno di funzione. Lo so, ma stanno scomparendo i lineari a valvola, oramai ti parlo da radioamatore, tutti gli radioamatori stanno comprando gli amplificatori allo stato solido, ho capito, perché le valvole oramai sono in disarmo. Ormai ci sono tanti amplificatori allo stato solido che funzionano molto molto bene, io ce l'ho, ma come tanti altri radioamatori che ce l'hanno, il funzionamento è meno consumo, è la cosa più diretta, non devi stare sempre a raccordare quando ti sposti in banda, capito, tutto elettronico, è un'altra gubba, vabbè, però per la 27 è un BV131, un lineare così va bene, capito, va bene, non c'è bisogno di stare sempre accordando, una volta che è accordato è una valvola integrata e quindi fa tutto, ma quando inizi a avere un amplificatore con 2, 3, 4 valvole, se man mano ti sposti in banda devi accordare perché la logica cambia, non c'è niente da fare, capito, vabbè, comunque, io appena vado ad Alghero me lo faccio fare quel 747 te lo do, ok? Sì, va bene, io questa radio che ho già, diciamo, arriva fino a 30 e poi torno indietro, capito, ma già va bene, giusto perché così almeno non usi niente, capito, e va bene così, e se voglio un pochettino di spintarella aumento, se no se arrivo con 5 watt lascio così, e pazienza. Ecco qua, adesso mi sono fermato su a cosa per andare lì a San Francesco, però è molto prima dove hanno fatto quella strada per andare da Gianni, capito? Com'è il segnale? A me? Yeah. A me sei quasi 9, Antonio, alla grande, non bene, no, di più. Che io, Antonio, mi sembri come quando sei a casa, capito? La radio perfetta, capito? Anche io c'ho 9 pieno. Già va bene, adesso sono un po' in alto io. K, dai, già funge, ma mi voglio mettere un'antenna più piccola che abbia la stessa resa, capito? Buttateci tutto! Ascolta, nell'attacco di quell'antenna, ciao profe, l'attacco di quell'antenna com'è a farfalla? Farfalla normale. Praticamente l'attacco a farfalla è quello piccolino, non quello grande della PLC 800. Piccolino. E che antenna stai usando tu adesso? Hai sentito il profe? La battaglia in varia. Dimmi che antenna stai usando adesso? Magnum. La Magnum sto usando. Lem. Sì, ma com'è? In acciaio com'è? In acciaio, carrozzino d'acciaio. Va bene, va bene. Se fa poco ti faccio un regalo, il mio mostro che avevo nella Saxo. L'ho trovato l'altro giorno. Non c'ho l'attacco, però c'ho l'antenna, la frusta nera, la vera frusta nera, quello che nel rettilineo di Perfa facevo aprire le luci in galleria, capito? Ah, tiene anche molti vatti con la frusta nera. Tiene abbastanza, non ti preoccupare, io c'avevo il D300 in macchina, non l'ho mai fatto nulla. C'ha tre cariche, ce ne ha una sotto, una centro e una sopra, capito? Già si vede dalla gomma nera, che sotto è leggermente più larga, in centro è leggermente più larga e sopra è leggermente più larga. E poi c'è il piolino per la regolazione stazionaria, ma dovrebbe essere già regolata, comunque poi si prova. Gianni Lubrofetta, il re dei treni di Sassari, avanti. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a todos, non so che ci sia in ruota, ho sentito a te e Antonio, sempre in marramobile, tipo civetta, oi! Antonio, la civetta, come va da quelle parti? Io sto andando bene, siamo sempre in Brescia, un KMC60, bene va già. Un burro, mi stai spaccando l'altoparlante. Finalmente sono riuscito a mettere a posto, che bravo che mondo è salento. Quando compri le cose usate, funziona ma non mi piace, l'ha già messo, cazzo, molto nel garage da dentro. Chissà che a te mani è passato, oi. Vabbè dai, l'importante è aver risolto. Guarda, se lo vedi è nuovo adesso, l'ha già fatto due tappezzi, l'ho fatto colore originale, grigio, che vuol dire che ho le bombolette io, che avevo comprato, perché era, non voleva né visto né toccato in mano, capito? 50 euro, cazzo, boh, io quando do le cose sembra che non le abbia mai usate, ma è possibile che uno che viene una cosa in tutte condizioni, per carità di, ma poi dentro c'erano ancora le batterie dentro questi microfoni non si mettono, era tutto sirato, ho dovuto staccare il portabatterie, buttarlo via, metterne uno nuovo che ce li ho, ce li avevo, ricollegare tutti i fili, pulire tutta la trilina, ti dico, sono beccato, guarda, ho finito poco fa, tutto il pomeriggio c'ero, però adesso sta andando bene, ho tutto pulito, disinfettato, era già asciugato il basamento, il microfono, beh non l'ho toccato perché non si tocca, era nuovo, ma il basamento non voleva visto, adesso è perfetto, adesso sembra che stia andando bene. Ehi, a tagetto mi sei bene la tua parlante. Allora sono contento, non ancora passato il treno. Oh, ehi. Chi c'è in ruota, avanti a todos. Ciao Gianni, buonasera Carlo da Questa che ti saluta, ti cordializza, facendo quattro chiacchiere. C'è anche Luca, dall'Italia, giù. Bene, dai, ciao Carlo, buonasera. Vediamo se c'è Luca, avanti Luca. Ciao Luca, se ci sei, scusate, vado a vedere un attimo il telefono, arrivo subito. E quindi Antonio Bombolo. Fammi, ti ho mandato una cosa, mi. Ti ho mandato. Ah, perché a me non mi manca nulla in macchina. Ti ho mandato una roba, mi. Va bene, adesso la controllo, riprendi e fai girare. Anto, dove sei? Prendilo, profe. Eia. Carlo ti ha chiesto dove sei? Vicino a San Francesco, sopra. Sì, qua arrivi benissimo. 9, adesso sei oscillante, vai 9, 9, 20. anche io, se sono fermo. Eia, già va bene, già va bene, già spinge quella roba. Appa. Hai visto qua? Stai perdendo il cartone animato, Gabriele. Sono che televisione vai in macchina? No, altro che antifilm mi ha già visto. Bella, cazzo, piccolina, quanto è? 4 pollici? 6 pollici dovrebbe essere. No, ma io posso usarla anche come radio, tutto fa questo. E qui c'è ben davvero, Bella, ci vede anche molto bene. Se lo pronto che ho la foto, ci vede molto bene. Ha smesso, poco fa ha giusto una pisciatina così, ma niente di che, adesso ha smesso. Sotto qua c'è ancora il giardino dalla parte dove stende mia moglie, che c'è una appena diviso il velo, che sta ancora leva, ancora non ce l'ha fatta scendere. Porca miseria l'acqua che ha fatto, ragazzi. Lo so. Beh, Ciccio. Ciccio. Ciccio. Oi, ciao, Fabio. Ciao, Emanuele, buonasera, ben sentito. E ora intanto. Papà, ciao, Emanuele, buonasera. E come sei, Anto, ciao. Sono qua sopra a San Francesco. E arrivi bene. Comunque, saluto un altro dalla ruota, comunque, là, riprendi qua. Ciao, pagato, Emanuele. Buonasera, ben inteso. Avanti, caro. Emanuele, io ti sento un po' basso, ma ti sento. Non so se tu riesci a sentire me, perché sono con l'antenna nel terrazzino. Sì, ti sento, tranquillo. Benemera, va bene, dai, è importante che ci sentiamo tutti, almeno a Sassari. Facciamo qualche chiacchiera ogni tanto. Benemera, vai Antonio. Capa, sì. Io tra un po' ritorno a casa e faccio la cena. Capa, io sono qua, si fa la grande. Insomma, ho messo il cartone animato al bambino, ho messo. Luca Fiotto, da questa parte. Già sono pronti, ciao Claudio. Ho sentito per la prima volta Emanuele. Luca ha fatto una fluppi fino a Milano Italia. Perché sta scendo così, Luca? Non lo so, perché mi metto il microfono troppo vicino alla voce invece di tenerlo lontano. Sono sicuro che adesso mi senti meglio perché lo sto tenendo a distanza. Però l'abitudine mi porta a portarlo alla bocca. No, lo strappa. Cazzo, non riuscivo a capire. Ma così mi senti meglio? Così alla grande, va bene. E lo devo tenere lontano. Tieni lontano, cosa che bisogna di lo attaccato? Abbassa un po' di Mickey Gain allora. Quando finisco di leggermi le istruzioni capisco come si fa. Perché? Così complicato? Fatti posare e dati una righici. E vabbè, l'importante è che stia uscendo bene adesso. Sì, si è uscito benissimo la grande. Dai, riprendete e fate girare, però c'è un benevolo giorno. Intanto io devo andare a fare un telefonato a mia mamma prima che si addormenti. Vai, Carlo. Yes. Sì, Luca, se parli col microfono troppo vicino è a volte incomprensibile. Come ti sposti è perfetto, capito? Perfetto, la radio pulita, capito? È sicuramente l'abitudine. Però se stai cercando di abbassare l'amplificazione, molto probabilmente poi magari lo potrai portare anche vicino, capito, alla bocca, se la abbassi un pochettino. Va bene, mi riprendo Emanuele, la mia cugina Vara mi va un controllo e mi diceva aveva modo di tu. Emanuele non vuoi più. Sì, Emanuele. Esci, mi si torna a casa, vai. Evidentemente si deve essere spostato. C'è Gianni, ci sei ancora, riprendi. Bello. Qua sono, ciao Emanuele, buonasera, se sei all'ascolto. Sì, Luca, appena trovi le istruzioni ti conviene abbassare un po' i mic game, perché l'abitudine di avvicinarlo poi rende la radio praticamente incomprensibile. Vabbè, già troverai modo di sistemare la cosa, dai. Riguardo alla mia situazione, segnale e radio, come sono? Da me stai arrivando 9+20, radio 5, bella, chiara e pulita, sempre come al solito. Bene veda. Antonio, barra mobile, come mi ascolta? Bene, non ti posso dare il segnale perché io non ne ho di smizzare, non so come mi senti tu. No, già ti copio bene. La radio com'è? Bella, bella squillante? Bella, bella, proprio bella. Quando ti arrivo io a te, bene? Guarda, sei oltre il 9. Oltre il 9, praticamente tra il 9 e il più del 30, in mezzo. Già va, 9:20 sarà. No, chi lo 20 non è. C'è il 9, spazietto, e poi più 30. Allora 9:30. No, non ti aggiungi 9:30. Ho detto, tra il 9 e il più del 30 c'è uno spazio, sei lì in mezzo. Per il 9:10 sarà. Gianni qua, fine di via l'Italia, 9:20, radio 5, perfetto. Bene, e anche tu sei quasi sul più, Luca. Sì, molto vicino al più del 30, al mio umilissimo strumentino della radio. E comunque, tutti a bombetta, dai. Siamo diventando tutti bombaroli. E senza integratori, sennò guai. Eia. Stavo guardando quella strana che c'è in Sicilia, mamma mia, è una cosa impressionante, a Niscemi, che è in provincia di Caltanissetta, è un centro grosso che ha più di 25.000 abitanti, e ci sta scendendo mezzo paese. Ho visto qualcosa, boh, adesso non so dove. Oioia. Quando la natura decide di rimettere a posto le cose, non guarda in faccia a nessuno. Così. Adesso io sono in movimento, mi si torna a casa. Ehi Antonio, tanto ti sentiamo, ovunque tu ti sposti, ti sentiamo, vuol dire che hai fatto un bell'impianto là in quella macchina. Sono bravino, dai. Bene, ma l'antenna qui ce l'hai a centro tetto e quindi già va bene. Ma certo non sono come a casa, però. Però insomma, ti fai sentire ovunque vai. E ultimamente hai provato anche da altre parti della città e ti abbiamo sempre sentito anche in mezzo ai palazzi. L'altra volta eri in via Turati, hai fatto un bel di giri, capito? E ti sentivo sempre. A casa esco a pompa, a casa. A casa ci possiamo organizzare meglio, come tutti, dai. Già va bene. E Gianni, doppio room, non si è sentito oggi? Io l'ho sentito stamattina. Tu non è entrato. E stasera non l'ho sentito, deve essere impegnato, perché mi ha detto che aveva un problema di scarico intasato. E me l'ha detto pure a me, che si chiama l'idraulico. Ci voleva la pompa lì, quella pressione. Io ce l'ho una pompetta, magari bastava anche la mia, e l'ho trovata prima, sono sceso in garage, che l'ho sentito, però ormai ha chiamato l'idraulico e gliel'avrà risolto, immagino. E poi, io ho precato in aria anche tutto. E quando si intasano sto cavolo di scarichi, sono una rogna, sono, mamma mia, già ne ho furato uno e due in vita mia. L'ultimo l'ho fatto ad Alghero e ho dovuto mettere una sonda più di 7 metri perché arrivava alla colonna montante ci doveva essere un tappo enorme, chissà di che cosa. Nuda, ha provato con la sonda, niente, poi alla fine pompando aria ha sentito boom, ed è sceso tutto di colpo, capito? L'ho oscurato, non c'era riuscito neanche l'idraulico. Lo so, ma cosa fai tu, la bomba parte la lavandina, le tube? No, sono quelle pompette che le compri per due citti, capito? Però hanno un sacco di impotenza, capito? Pompa oggi, pompa domani, sì, capito? Funzionano sempre, ce l'ho un paio d'anni io, ne avevo prima una uguale, poi mi si era rotta perché sono in plastica. Però ti posso garantire che ho sudato tanti di quei lavandini che tu non hai idea, Aldo. Sai cosa che c'è la bomba a fatturare un lavandino? Io la verità ne non ho mai avuto problemi. Questa l'avevo comprata da Tecnomat, capito? Ci sono anche da Tecnomat, quelle piccoline. Poi ci sono anche quelle professionali, ovviamente gli idraulici hanno quelle. Le scarichi, ci sono le cose che misurano i bar. No, c'è il manometro, ti segna quanti bar la vuoi caricare. E quelle ovviamente, essendo professionali, sono anche meglio, capito? Però quelle costano di più. Ma ripeto, io non ho mai avuto nessun problema. Lo so, però a volte può succedere, capito? Quindi per non stare lì a spendere tanti soldi, prendi una di queste con una decina di euro, si comprano e c'hanno tutti gli attacchi anche per VC, capito? Sono utilissime, in emergenza hanno risolto sempre i problemini. Va bene, riprendi Gianni se ci sei ancora. Eccomi. Magari Carlo, magari in quell'intervento che hai fatto, magari che o c'è caduto qualche straccio dentro, o gacchi d'una rampa di grasso, comunque per intasarsi così sicuramente è caduto qualcosa di grosso, perché vabbè, può succedere. L'importante è che poi si sblocchi, perché se si blocca la colonna montante sono dolori, Esatto, praticamente credo che sia caduta una di quelle spugnette, capito? Una parte di spugnetta gli era caduta e poi sicuramente era già mezzo intasato e quella ha fatto da staffo sicuramente. Poi si sarà ingrossata, capito, con tutte le cose. Avevamo messo dentro di tutto, anche l'acido muriatico, nulla, non scendeva, la sonda, niente, la sonda non ce la faceva, giravo, nulla. Alla fine ho fatto una ventina di cariche con quella pompa, alla fine ho sentito boom di botto e evidentemente piano piano l'ha spinto finché è arrivato, capito, alla parte larga e deve essere sceso e così si è risolto il problema. Ho capito. Una bella mandata, si sarebbe voluta anche una bella mandata di acqua bollente, che magari avrebbe agevolato la cosa, l'importante è aver risolto. Dai che c'è Luca in parcheggio, Luca? Io con l'acqua calda ci provo domani mattina a vedere se riesco a sturarmi. Ma a sturare a te o al lavandino? A me, da quando sono a dieta, non riesco ad essere regolare come un orologio come l'ero prima. Adesso sto andando di bustine, ma purtroppo uno abituato a mangiare tanto, poi chiude i rubinetti e poche fibre, poco pane, poca pizza, poco di tutto e non si entra più in bagno. Ho capito, vabbè. Qua è già siamo passati a un livello superiore. Ma è Spalmiero che fine ha fatto? Attento che l'uccello è sempre qua. Attenti all'uccello, al rapace. In Russia, prima un tempo vera l'uccello, loro è più. Cos'è, è migrato? Il Unito ce n'è andato da questa nevaglia, non ne vuole più sci. Ma c'è un freddo già. Non ho capito, Clara. Dove c'è il freddo, capito? C'è nidato già la mazza nerifaria. Ah, se ne è entrato in tana come la murena, così è. Allora, infatti, oggi butto la goccia, la baletta con la braccia, ho detto, ci muove un capo di incendio. Va bene, dai, facciamo girare. Chi c'è? A chi tocca? Ad Antonio? Sta guardando il cartone animati. Magari sta guidando e gli viene male rispondere. Poi c'è anche il bambino a macchina. Luca, avanti, vieni avanti, Luca. Mi a me, mi, che mi sta ordinando le batterie da Amazon. Ascolta, che microfono stai usando? un microfono, c'è scritto Dynamic microfono. Dynamic, ah, quei microfoni dinamici, sì, ma c'è una rotellina sopra, oppure non ha nessuna regolazione? No, nessuna regolazione, niente di che. Sono i migliori, sono quei dinamici con quelle capsule un po' che spingono, spingi un bel, se ti avvicini vai in distorsione. Invece Carlo, tu vabbè, me l'hai già detto, cosa stai usando? Io ve l'ho detto, sto sempre controllando, monitorando questo microfono, stavo pulendo, c'era dove c'è il PTT e cose, era ancora un po' gaudio, bignoso, mi piaceva, là con lo stecchino piano piano ho fatto tutte le fughette che c'ha, capito, ho giocato un ciuccio. Allora se si muoia e di culo, vuoi che c'ha mai un BTT? Avanti Gianni doppio rot. Hey, buonasera a tutti, doppio rot da questa parte, non so chi ci sia, saluto tutti cordialmente. Sono entrato adesso perché ero incasinato con l'idraulico e non ce l'ha fatta a sturare il lavandino, caro. Grazie, ma ho trovato da solo io quello di fuori, perché avevo sempre così di Filippo e il pelo mi aveva interessato, i tappeti di Filippo, capito? E ho tolto il sifone da sotto, mi ha fatto scendere tutto, e poi ho tratto la sondina, piano piano l'ho tutto pulito, ci ho buttato un po' di varecchina ed è andato bene. Ma questo qua ci deve essere formata una pietra tipo calcare, perché è entrata la molla e in più gli ha dato sino a 4,5 atmosfere con la pompa e non si è sbloccato. Adesso mi ha consigliato di mettere la Coca-Cola e lasciarlo riposare tutta la notte. Già, non è vero, sono cazzate. Vai, comprati, ma idraulico però, non me lo spieghi. Vai, da usare che ti fai dare il non aveva detto una volta Vannino, come cazzo si chiama quel coso. Comunque è un acido particolare che non fa fumo, no, perché se ne metti acido muriatico fa fumo, è tossico. È un prodotto particolare che metto in idraulici per ammorbidire, capito? Per ammorbidire. E poi con l'acqua bollente se ne va da solo. Il Niagara. Bravo, quello lì, non è il muscolo, come ti chiama? Tizio muscolo, il muscolo in gel, non serve a niente. Quello lì, quello che ti sta dicendo, che ti ha detto Marco. Boh, le proverò tutte, perché sennò mi tocca sfasciare tutto. No, non sfasciare niente, compra quello, però in un negozio di idraulica dove vendono materiale idraulico ce l'hanno, è un prodotto che usano gli idraulici, ce l'hanno sempre appresso quello lì, e serve proprio quando c'è la palla di che poi è detersivo, capito? È detersivo che tra il caldo e il freddo si diventa duro, diventa pietra, te lo dico perché io ho lavorato in depurazione e molte volte capitava anche a noi che le pompe si intasavano con questo calcare così duro ed è detersivo, capito? Quello una volta lo butti quel prodotto lo ammorbidisce, capito? Lo lasci e lo metti la notte, poi la mattina fai scendere l'acqua bollente e se lo porta via da solo. Era anche questa, ma guarda, tutta la sera poverino le ha tentate tutte, con la molla è riuscito a arrivare fino a un certo punto, poi si bloccava, c'era quella molla lunga, eppure quella che proprio arriva tutta, però si bloccava e praticamente poi alla fine ha preso la pompa, ha provato prima a 2 atmosfere, poi a 3, poi a 4, poi a 4,5, di più non li posso dare, se no ti crepi tu. È già troppo a 4 atmosfere, perché se c'hai un PN16 già a 3 atmosfere è troppo. Forse è stato un PN32 come tubo, ma di solito quegli scarichi lì sono in polietilene con PN16, quindi è pericoloso, fai danno. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. Mi stai ascoltando bene, sì? Eia, buonasera a tutti. Guarda, io il Niagara l'avevo visto usare da nonno quando ero piccolo. Io non so se abbiano ammorbidito, ridotto un po' l'effetto di quell'affare lì, era in granuli, allora lo devi mettere nelle condotte che non siano troppo piene d'acqua, no? Lo fai scendere nello scarico, nel lavandino o quello che è. poi versi acqua bollente, però ti devi preparare uno straccio e dei guanti, guanti da cucina vanno bene. Come inizia, se, come senti che inizia a ribollire, tappa subito con lo straccio, perché è una reazione veramente violenta, è roba mala. Questo ripeto, sempre che non abbiano ridotto la, diluito tra virgolette la, la capacità corrosiva della, del prodotto, è una base molto forte. Sì, di solito si dice che corro dai tubi, però per una volta che lo usi non, non gli fa nulla. Certo, se lo usi una volta a settimana per tutto il tempo, allora alla lunga corrode, però dovrebbe riuscire a, a, a togliere tutti i residui che trovi sulle pareti del tubo, no? Che poi fanno spessore e vanno a tappare. Tappa. E io rilancio Carlo, mi pare di averlo sentito in rotta. Carlo, per informazione ci passiamo anche noi, siamo nella lista del porta a porta. Vai Carlo. Sì Marco, buonasera, ciao Gianni, mi stavamo parlando proprio di queste cose prima perché ti ho sentito stamattina e quindi neanche l'idraulico è riuscito a sbloccare. E, insomma, una bella rottura, conviene di notte buttare dentro qualcosa di, come ti diceva Marco, ci sono i prodotti che li usano i professionisti, capito? E, non credo che siano che li diano a tutti, capito? Giusto chi, chi lo fa per professione può acquistare, e ce ne sono di veramente molto potenti. Si buttano dentro, stando attenti, si fa agire e poi si butta acqua calda. A quel punto poi basta pompare un po' di aria e dovrebbe sbloccarsi tutto, perché aprire, Gianni, sicuramente sarà una spesa enorme, capito? Se, secondo com'è poi sfasciare pavimentazioni e cose del genere, conviene fare altri tentativi. A te il microfono, Gianni. Infatti li farò, adesso ho messo la Coca-Cola perché l'idraulico mi ha detto che un suo cliente l'ha chiamato, mi ha mandato la fotografia e dice c'era la vasca da bagno tutta piena d'acqua, non scendeva. E poi ha messo la Coca-Cola e praticamente l'ha richiamato e ha detto ho risolto tutto, gli ha rimandato la fotografia con la vasca vuota. Dice che l'ha lasciata tutta la notte e l'ha sbloccata. Ma gli ho detto lì sono capelli, sono peli, non sono cose grosse, magari lì è detersivo, capito, che si accumula, fa con le palle, come ha detto Claudio, tipo pietra. Ne ho tolto una dai sifoni, ne ho tolto una di quelle lì che bloccava lo scarico della lavastoviglie, lo bloccava completamente, si era formato un tappo. Sì, sì, già, vai tranquillo, te lo dico per esperienza vissuta. L'unica cosa che puoi tagliare i lavandini da cucina del bagno sono il detersivo, capito? Perché poi quando col freddo, soprattutto in questo periodo, diventa duro, è una pietra, è una pietra, e quindi bisogna ammollire un po' e poi va via da solo. Mentre i peli, peli bisogna toglierli, peli bisogna toglierli, non è che li muovi con la Coca-Cola. Vedi, ogni tanto c'è qualcosa che diventa duro. Va bene, entro così a gamba tesa per salutarvi, dai. Devo scappare perché c'è il dovere mi chiama. Dai, saluto circolare a tutti e niente, ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao Gianni, ciao, te l'ho giurito, lo mio sei curato, va bene, avanti a chi tocca. Allora, a me l'idraulico mi ha detto che adesso devono fare, devono avere il patentino per usare quel tipo di prodotto, se no non lo possono usare. Sì, beh certo, certo, certo, è così. Ma sì, mi sei giurato. Ehi, hola, sono ritornato a casa. Scusate, io per il lavandino che mi si era intasato sono andato sotto, ho staccato la piletta dal muro, nel muro, nel bocchettone da 40 credo che sia, ho infilato il tubo dell'idropulitrice, dove in testa ho una testina con quattro fori, uno che punta avanti e tre che puntano sui lati. Praticamente infilando quel tubo, quel getto così fine e con la pressione dell'idropulitrice mi ha sbloccato tutto. senza mettere prodotti chimici o altro. Ma l'idropulitici io non ce l'ho, cosa faccio? Tu ce l'avevi, hai fatto bene che l'hai fatto, vero? Ne ho, devo arrangiarmi diversamente. Antonio, ma se tu non ce l'hai, io ce l'ho, io te la presto. No, è un'idropulitrice, no, non è la femmina, no. Ehi, vabbè, adesso vediamo, guarda, se riesco a risolvere, non voglio disturbare nessuno. Ci ha tentato, guarda, Torino con la molla, ci ha messo la molla e l'ha fatta scendere fino a 7,5 metri di molla. Poi l'idraulico ne ha provato una ancora più lunga. Però ha detto che ci vuole la molla più grossa, perché lui non ce l'ha questa molla grossa, ha detto che ce n'è una più grossa che arriva bene e praticamente ha più forza, rimane più dritta, capito? Invece questa si piegava e non andava avanti. Un casino, questo, guarda, io con tutto che io i piatti prima di lavarli ci passo lo scotch, le pentole lo stesso, le sciacquo, butto l'acqua nel gabinetto per non avere problemi con la bandiera, eppure ce li ho lo stesso. È una bella gatta da pelare, dai, purtroppo è così. Adesso fai qualche altro tentativo, Gianni, e dovresti, spero che tu risolva, perché sei il lavello di cucina, insomma, quello è fondamentale, dai, per fare tutto, ed è una bella rottura. Quindi o ti procuri quel disgorgante per uso professionale, come ti ha detto Marco, lo fai agire, poi butti acqua calda e poi se vuoi ti presto anche io la pompetta che utilizzo io, fai diversi tentativi, magari si sblocca. Ma cos'è quello di cucina, quello del bagno? Allora, bello, quello di cucina è allora è normale quello. Detessivo dei piatti già. Ma scusa, ma non c'era il sifone sotto, il lavandino, quella palla? Sì che ce l'ha. E com'era quella? Detessivo c'era? Quella lì c'era adesso, perché prima, allora, chi mi ha messo i mobili, chi mi ha piazzato i mobili, mi ha messo anche il sifone e ha fatto una specie di incrocchio, capito? E non ha messo quello che sta dicendo tu, quella palla che poi si svita e si toglie tutta la merda. Oggi mi sono fatto fare l'impianto nuovo sotto da quel mio amico che è idraulico. Mi ha messo, me l'ha fatto tutto per bene, con il sifone che si può aprire, eccetera, eccetera. No, non ce n'era, c'era un po' di merma e c'era anche una di quelle pietre che ti ho detto, di quelle pietre che hai detto tu. Era detersivo tutto compresso e qualche pelo anche. Praticamente ce l'avevi diretta, non si fa il pianto così, soprattutto i lavelli della cucina ci va sifone, va sifonato, perché ogni tanto va pulito, capito, ci vanno i residui come lavi i piatti, come, capito, e tutta quella roba lì, se non c'è il sifone, che non puoi pulirlo e tirarlo via, essendo diretto, ti va tutto diretto e poi si accumula dove c'è qualche strofattura e ti fa il tappo. Si conferma, io ce l'ho così, col sifone. Mi è successo una volta e mi si è bloccato solo il sifone, ma non... Certo, tanto il sifone si deve bloccare. Poi tu metti un secchio sotto, apri il sifone e si pulisce tutto. Ma se non c'è il sifone, che è diretto, va tutta la roba all'interno, diretta, capito, a scaricare dove deve scaricare, e secondo cosa trova, se c'è qualche gomito, qualche giro, qualcosa, non passa e inizia a accumularsi e ti fa il tappo. Quello abbiamo fatto un annetto fa, no, abbiamo aperto quella coppa o quella palla, come la chiamate voi, e dentro sul fondo c'era questo materiale un po' tipo biancastro, guarda, sembrava un misto tra calcare, gesso e cemento, ma era duro da togliere, e quello è tutto il detersivo, residui magari calcari di acqua, ma è una cosa allucinante da togliere, giù mai ci voleva lo scalpello, vai Carlo. Esatto, sì, anche io le ho viste quelle... quelle cose lì purtroppo lo fanno i detersivi, si legano bene col calcare, capito? E poi, come ha detto Claudio, se trova qualche trottatura lì si forma il tappo ed è un casino. Però io penso che provando già riuscirà Gianni a curare tutto. Mi auguro, perché se no tocca sfasciare tutto, perché praticamente passa sotto la cucina componibile, c'è da smontarne un pezzo di cucina dove c'è l'avvelo, in più sfasciare tutta la fila che va sino al doppio servizio dove scarica. Comunque già, se lo dovessi trovare, guarda che lo vendevano anche la Cobec in Niagara, bene o male vendono di tutto, a Ciro Muriatico eccetera. Se dovrei usare quello, usalo con cautela, quindi guanti, se c'è degli occhialetti per proteggere gli occhi, anche la vista te li metti, uno straccio pronto all'uso, magari anche bagnato in modo che faccia bene da tappo. Come vedi, l'acqua bollente, questa che praticamente è idrossido di sodio e soda caustica, fa una reazione abbastanza violenta, tu tappi, tieni premuto con lo straccio con i guanti. E lui all'inizio, vabbè, la reazione è violenta per il contatto con l'acqua, poi piano piano si dovrebbe mangiare tutto quel materiale organico che tappa. Va bene, vai Claudio. Sì, beh, sono dei reagenti chimici, è chiaro che quei tipi di reagenti lì a contatto con l'acqua hanno una reazione chimica, quindi sfruttano proprio il materiale che c'è, se lo mangiano. E quindi automaticamente tirano fuori dei gas, delle cose. Ti consiglio anche la mascherina già, ti metti una mascherina e un paio di occhiali, ok? Guanti protettivi e uno straccio bagnato.